Signor Marconi, facciamo un urrà per le invenzioni che al mondo lei dà. Per i mille suoni che scondi là, per questa gran novità. Con una cuffia, un azo, un carbon, la la la ru, avremo in casa 300 nazioni. Più che portentosa, è miracolosa questa sua invenzione. Evviva la radio a galena, entra in funzione dopo cena. Il babbo che si sente elettrotecnico vuol provar, vuol cercar, e finalmente lui crede di ascoltar. A chi regendare? A chi regendare? A chi E viva la radio a galena, malgrado si senta malapena. Il babbo che ha la cuffia divisibile da mamma la metà, e guancia guancia ascoltano il cracra. A chi era di andare? A chi era di andare? A chi era di andare? Mamma vuole sentire Parì e papà cerca le stazioni, ruga sui carboni e si sente un po' Marconi. Ma tace, la radio a galena e il babbo diventa una iena. Ma nello sparecchiare la domestica fruga qui, tocca lì, e all'improvviso si sente si Parì. All'opera Clemenceau si incontra con Poincaré, al Mogador Jean Marais si incontra con Jean Cotteau. Italia, i carabinieri presso Collegno hanno trovato un tale che non è accertato se sia Cannella o Bruneri. Scontrati nel cielo di Tours un Macchi e un Blériot 23. Den. E voilà Lucien Boyer canta Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour, d'amour. E insieme va mille voci nel ciel. Che va bel. Habla Radio Lima. Spricht Radio Brema. Parla lei a Radio Roma. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Evviva la radio a galena. La buon compagna adesso è di scena. Ma mentre sta leggendo le ultimissime, crac, crac, crac, crac, crac, crac, la voce sfuma, ritorna e se ne va. È uscita la nuova Packard munita di compressore. Ma l'amor mio non muore. È un film di Mario Bonar. Il calcio raggiunge Altemete. Turchia contro Italia dalla cara. Rosetta Levratto che spara. Gol. E Artira ha sfonnato la rete. Sul caso Bruneri Cannella ci sono due nuovi pareri. A Roma si afferma. E Canneri. Torino risponde. È Brunella. D'Annunzio si bagna nell'Ario. Mascagni dirige un concerto. Franzi presenta l'Umberto. Balocchi e Profumi di... E a Mario. Mamma. Mormora la bambina. E viva la radio a galena. La piccola radio a galena. Psh, i derni clip, psh, dei nostri di... Psh, la novità di quest'età. È qua.